Letture di Radio 24. In un piccolo paese della Svezia si scopre che 60 bambine hanno subito mutilazioni dei genitali. E adesso si teme che il modello di integrazione, da sempre motivo d'orgoglio per gli svedesi, possa entrare in crisi. Un altro strappo, inatteso e doloroso. Proprio nel paese, la Svezia, in cui le regole, la legge e la difesa dei diritti sono ormai talmente interiorizzati da essere dati per scontati. I servizi sanitari di Norrköping, città di 80.000 abitanti della Svezia orientale, hanno scoperto che 60 bambine e ragazze dai 4 ai 14 anni hanno subito mutilazioni genitali, 30 di loro sono nella stessa classe. La maggior parte è stata vittima della peggiore forma di mutilazione rituale, con l'asportazione totale di clitoride e grandi labbra e l'area genitale cucita quasi completamente. In Svezia la pratica è illegale già dal 1982, in Italia solo dal 2006, e viene punita con 4 anni di prigione, 10 nei casi più gravi. Dal 1999 è reato anche se praticata in altri paesi. E ora l'allarme è altissimo, visto che molte mutilazioni vengono fatte all'estero durante le vacanze estive, quando molte famiglie tornano ai loro paesi d'origine, dove sono ancora oggi un rito di passaggio all'età adulta diffusissimo. Secondo l'EIGE, l'Agenzia Europea per l'Uguaglianza di Genere, la diffusione delle infibulazioni in Svezia ha coinciso con l'enorme flusso migratorio dall'Africa subsahariana, soprattutto dalla Somalia, negli anni Ottanta. Per questo i legislatori scandinavi, ancora una volta, hanno tentato di prevenire il danno con una regola, ma non è bastato. Gli effetti sulle ragazzine sono devastanti: infezioni gravissime, infertilità, disturbi psichici, emicranie, crampi e, naturalmente, l'annientamento completo e definitivo della vita sessuale. Abbiamo scoperto le mutilazioni durante i colloqui periodici con gli studenti. È stato uno shock, dice Juno Blom, direttrice del Dipartimento di Sostenibilità Sociale dell'Östergötland. Questo è un risveglio vergognoso per tutti noi. Vergogna, è questa la parola che corre di bocca in bocca, sui giornali, in televisione, nelle eterne riunioni che caratterizzano tutte le pieghe della società fondata sul confronto. Vergogna e senso di colpa. Per questo nessuno osa fare differenze tra i membri della società stereotipo e quelli più reali della società multirazziale. Nessuno allude all'origine delle vittime. Sono svedesi, punto. Svedesi da proteggere. Il caso Norrköping, spiega Blom, potrebbe essere strumentalizzato da forze xenofobe. Esacerbare ancora di più le tensioni. Non deve succedere. Qui in Svezia è incredibilmente importante che tutti siano trattati allo stesso modo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Monica Perosino, La Svezia sotto shock, 60 bimbe mutilate, dalla Stampa del 23 giugno. Letture di Radio 24. Con il suo terzo romanzo, Gli ingredienti segreti dell'amore, Nicolas Barrot ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, anche se recentemente sono emerse delle polemiche sulla sua vera identità da parte di un giornalista tedesco che afferma che dietro a questo nome si nasconda solo un'operazione di marketing. Quello che invece è incontestabile è il successo dei romanzi d'amore di Barrot, che ora dà alle stampe un prequel al suo romanzo più famoso. Questa volta il protagonista, Henri Bredin, è un timido studente universitario che cerca in tutti i modi di conquistare Valérie, una ragazza che condivide con lui la passione per i libri, ma che continua a considerarlo solo un buon amico. Quando ormai Henri sembra aver perso ogni speranza, trova nelle bancarelle un manuale del Cinquecento che promette di rivelare i segreti per un elisir di amore eterno. Chiunque abbia amato almeno una volta nella vita senza essere corrisposto sa che siamo pronti a fare le cose più insensate nella speranza di raggiungere il nostro scopo. C'è chi mangia la foto della persona amata e chi, in una notte di luna piena, sotterra a un incrocio una ciocca di capelli tagliata di nascosto. In confronto, la mia idea di provare con un menù d'amour non era poi così strampalata. In fin dei conti, è dimostrato che esistono cibi e spezie afrodisiaci, per esempio i semi di melagrana, gli asparagi, lo zafferano, il curry. Tuttavia, devo ammettere che all'inizio squadrai con una certa riluttanza la ricetta dell'elisir dell'amore eterno, che prevedeva ingredienti a me sconosciuti, come rumex acetosa, mandragora officinarum e miristica fragrans. Stando alle parole dell'autore italiano, la mistura segreta, sciolta in un distillato di acqua di rose e vino rosso e amalgamata alla pietanza poco prima di servirla, avrebbe fatto scoccare la scintilla del vero amore tra coloro che condividevano il pasto. «Come no? Non ci crederai davvero, Henri Bredin!» esclamai rivolto a me stesso. «Sono tutte sciocchezze!» Poi però mi tornò in mente l'eccentrico ometto che mi aveva rifilato quella rarità sul Quai des Conti. «Il libro aspettava me», aveva detto, e le sue parole mi sembrarono profetiche, addirittura fatidiche. Alla fine decisi di fare un tentativo. La cosa peggiore che poteva capitare era che la mia cena avesse un sapore strano, e la migliore, la migliore, non osavo nemmeno immaginarla. Ci misi una settimana a trovare tutte le erbe e le spezie necessarie per preparare l'elisir. Sminuzzai e tritai, lasciai in infusione e feci sobbollire, poi filtrai con cura il decotto con un canovaccio, e alla fine tenevo tra le mani la boccetta che avrebbe cambiato completamente la mia vita. «Oh, cucini tu!» aveva scherzato quando l'avevo invitata per quel venerdì. Poi aveva aggiunto con un sorrisetto ironico: «Ma sei capace?» «Vedrai», avevo risposto con un'aria di mistero. Spensi la luce e accesi la lampada a stelo accanto alla poltrona malandata davanti allo scaffale con i libri. Poi tornai in cucina, dove fin dalla mattina presto fervevano i preparativi. Soddisfatto ed emozionato, lasciai scivolare lo sguardo sul piacevole disordine che regnava ovunque. La terrina con la densa vinaigrette di patate era sulla credenza, pronta per l'insalata, già pulita, lavata e tamponata con un canovaccio, che attendeva nello scolapasta insieme agli champignon. I dadini di pancetta erano nella padella, croccanti al punto giusto. Il pentolino e la ciotola di metallo dove avevo fatto sciogliere il cioccolato per i gâteau erano ancora nel lavello. I due stampi con il composto, coperti con carta di giornale, li avevo messi fuori dalla finestra, su una tegola sconnessa che formava una specie di sporgenza. I gâteau au chocolat andavano serviti tiepidi e più tardi li avrei passati in forno, dove al momento cuocevano in placida armonia l'agnello e il gratin di patate. Pulii il ripiano della credenza e buttai i resti delle melagrane e le bucce di arancia nel secchio della spazzatura sotto il lavello. Il parfait à l'orange era stata la prima cosa che avevo preparato. In realtà è un dessert semplice, che riesce sempre, ma in quella cucina diventava un'impresa titanica. Valerie sarebbe dovuta arrivare alle 8. Sapendo benissimo che avrebbe tardato, avevo scelto un piatto che non avrebbe risentito della sua mancanza di puntualità. Anzi, l'agnello più cuoceva nel vino, più diventava tenero. Quando aprii lo sportello del forno, fui investito da una nuvoletta di vapore caldo e speziato. Munito di presine, afferrai la pesante casseruola e la appoggiai sui fornelli di ghisa. Sollevai il coperchio, mescolai il ragù con un cucchiaio di legno e lo assaggiai. Un seme di melagrana mi stuzzicò il palato con la sua nota agrodolce e la carne si sciolse come burro. Se il paradiso aveva un sapore, doveva essere quello. Mi avvicinai alle mensole, tastai in alto spostando i barattoli con la farina, lo zucchero e il sale e presi la boccetta che avevo nascosto in fondo al ripiano. Con il cuore che martellava, guardai il prezioso liquido dai riflessi verdognoli e l'aspetto vagamente pericoloso. Erano le 7:30 quando svitai con cautela il tappo della boccetta e tornai al ragù che cuoceva a fuoco lento. Il menù d'amour stava per essere completato con l'ultimo ingrediente, il più importante. In quel preciso istante suonarono alla porta. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Nicolas Barrot, La ricetta del vero amore, Feltrinelli, 112 pagine, 9 euro. A New Orleans c'è un'agenzia di pompe funebri che organizza dei funeral party, cerimonie dove il caro estinto viene messo in posa come se fosse vivo, seduto a tavola mentre tiene in mano un bicchiere di champagne, in sella ad una moto oppure al volante di un'automobile. Molti protestano e giudicano sacrileghi questi allestimenti, ma il titolare dell'agenzia dice che in questo modo si riesce ad alleviare la sofferenza dei familiari. Nelle ultime settimane, Louis Charbonnet è stato tempestato di telefonate da parte di persone desiderose di scoprire come fare per evitare di dover partecipare ai propri funerali in posizione orizzontale. All'agenzia di pompe funebri di Charbonnet, le chiamate hanno iniziato a fioccare lo scorso 12 giugno, in occasione delle esequie della 53enne Miriam Burbank, la cui salma è stata esposta seduta a un tavolo fra caschi in miniatura della squadra di football New Orleans Saints, con una lattina di birra in una mano e una sigaretta al mentolo tra le dita, proprio come aveva trascorso buona parte della sua vita. Dopo che la notizia è stata diffusa da internet, il signor Charbonnet è stato contattato persino dal direttore di un'agenzia di pompe funebri australiana. La sua agenzia, spiega con orgoglio Charbonnet, è stata fondata 132 anni fa ed è famosa per organizzare parate funebri. A un funerale di qualche settimana fa ha addirittura partecipato un gruppo di mariachi, spiega l'uomo, mentre tiene d'occhio l'arrivo degli SMS scritti da quelli che secondo lui lo odiano, perché ritengono disdicevoli o addirittura sacrileghi i suoi allestimenti. La moda sembra essere stata lanciata a Porto Rico nel 2008 quando la dipartita del 24enne Angel Luis Pantojas, vittima di un omicidio, fu commemorata a casa della famiglia con una cerimonia durante la quale il cadavere rimase legato alla parete. La trovata, alla quale fu dato il nome di Muerto Parao, ovvero morto che sta in piedi, ebbe un successo immediato, tanto da ispirare i funerali della vittima di un altro omicidio, la cui salma fu esposta in sella a una moto. Quest'anno il cadavere di un pugile è stato sistemato in piedi in mezzo a un ring, mentre quello di un'anziana è stato assicurato alla sua sedia a dondolo. Non si tratta di trovate buffe o divertenti. Le famiglie attraversano una circostanza dolorosa, dice la signora Rodriguez dell'agenzia funebre locale, e allestimenti di questo tipo permettono loro di soffrire meno, perché vedono il loro caro in una posa che li avrebbe divertiti e che lo fa sembrare ancora in vita. All'inizio simili funzioni, il cui costo base è di $1,700, hanno incontrato una certa resistenza. L'amministrazione portoricana si è riunita più volte, ascoltando anche l'opinione del Ministero della Salute e dei direttori delle agenzie funebri, prima di approvare nel 2012 una legge che le consente, sempre che la posizione del corpo non sia immorale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Campbell Robertson e Francis Robles ai funeral party di New Orleans, dove l'ospite d'onore è il morto, da Repubblica del 24 giugno. Alcuni critici inglesi hanno giudicato negativamente la presenza della mezzosoprano Tara Errott nel Cavaliere della Rosa di Strauss, messo in scena a Glyndebourne. Non tanto per le sue qualità vocali, ma perché in quanto piccola e paffuta è stata giudicata inadatta ad interpretare il personaggio di Ottaviano, un giovane nobile. I cantanti insorgono e qualcuno fa notare che Pavarotti non è stato mai criticato per il suo peso. I cantanti d'opera hanno replicato furiosamente alle recensioni apparse sui quotidiani inglesi che hanno criticato la mezzosoprano Tara Errott per non avere il fisico adatto per il personaggio di Ottaviano nella nuova produzione del Cavaliere della Rosa in scena in questi giorni a Glyndebourne. Pur riservando giudizi ampiamente positivi alle sue performance canore, i tabloid sono stati decisamente meno galanti in merito al suo aspetto fisico. Le descrizioni spaziavano da tarchiata, il Telegraph, a paffuto mucchietto di ciccia infantile, il Financial Times, il che ha spinto cantanti come Ellie Scott e Jennifer Johnston a difendere la loro collega, sia in rete che sulla stampa. Se c'è un limite che i critici di musica classica e di lirica non dovrebbero mai valicare, è quello dell'aspetto fisico del cantante, argomento che esula dalle loro competenze, scrive la Johnston sul Guardian, aggiungendo che tutti i cantanti hanno bisogno di avere stima di sé quando cantano, ed è proprio per questo che trovo particolarmente crudele e irresponsabile da parte di questo gruppo di critici aver mostrato un simile disprezzo per l'aspetto della cantante. In una lettera aperta pubblicata sul sito Sleep Disc, la Cut scrive: «L'opera non è questione di luci o di costumi o di coreografie, e non ha nulla a che fare nemmeno con il sesso e con la statura. È soltanto questione di voce. In risposta alle critiche, Rupert Christiansen del Telegraph dice di non essersi pentito per quello che ha scritto e aggiunge: «L'opera è un'esperienza sia musicale che visiva, è una forma di teatro», scrive. «Magari è al 75% questione di voce, ma significa anche saper recitare bene e risultare credibili nel ruolo». Jen Dully del Financial Times ha replicato invece che le parole da lei usate non erano dispregiative, a meno che non si pensi che essere un po' sovrappeso sia una colpa, scrive, aggiungendo: «Io personalmente non la penso così». Avete ascoltato la lettura dell'articolo «I cantanti fanno sentire il loro peso nella diatriba sulle misure nel Cavaliere della Rosa», dal numero di luglio della rivista inglese BBC Music Magazine. Hello San Francisco, baby, I don't ever wanna die. Yeah, you got me sweating, celery.